Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, riprenderemo un tema che abbiamo solo accennato venerdì in finale di programma, e mi riferisco al modo in cui il mondo anglosassone, e oggi non lo sapevamo, non potevamo immaginarlo, è di estrema attualità visto la prima pagina del Financial Times, e il modo in cui il mondo anglosassone e i mercati attendono questo referendum. Ripeto, ma poi lo richiareremo, al di là di come uno la pensi, che sia una pessima riforma o una buona riforma, un conto è dire che questo avrà un impatto sull'economia a breve, lo riteniamo un errore. E oggi l'OCSE ci dice che comunque quest'anno facciamo 0,8% di PIL, l'anno prossimo 0,9%. Altra cosa è far finta di ignorare un dato di fatto, che l'elemento referendario, la carica e tutti gli aspetti di questo caricato provocheranno, lo stanno già facendo, qualche turbolenza sui mercati, sullo spread oggi di nuovo ai massimi dal marzo del 2014, ma non solo, anche e soprattutto sulle banche. Allora c'è chi dice sulle banche italiane era difficile fare un aumento di capitale prima del referendum perché l'incertezza politica avrebbe bloccato molti investitori a sottoscrivere l'aumento di capitale. Il fatto è che si sta generando un collo di bottiglia, e cioè dopo il 5 noi dobbiamo portare ad aumento di capitale il Monte dei Paschi, sono 5 miliardi, Unicredit almeno diciamo 10, e sono 15 miliardi, poi vedremo in che modalità, quasi una manovra finanziaria, un po' meno di manovra finanziaria, solo per due banche. È chiaro che questo elemento amplia le praterie della speculazione, e per cui la liquidità che c'è in giro va a scommettere in un senso o nell'altro, e quindi con oscillazioni molto forti. Lo dico perché oggi, da un lato, il Financial Times in prima pagina scrive: "Troubled Italian banks face fresh risk of falling if Renzi loses votes." Quindi le banche, le già tormentate banche italiane rischiano di dover affrontare dei fallimenti veri e propri se Renzi dovesse perdere al referendum, dovesse perdere la consultazione elettorale. Ora, anche qui, il Financial Times scrive una cosa diversa, opposta a quanto non ha scritto l'Economist la settimana scorsa, che ricorderete ha detto: ma in realtà non cambia niente, anzi, tutto sommato il fatto che possa non passare la riforma costituzionale è un segnale per Renzi. Era molto critico con la capacità riformista dimostrata dal Premier. Il Financial Times e anche Wall Street Journal invece mettono in guardia sul rischio sulle banche italiane, sul sistema bancario italiano. Fatto sta che, al di là di quello che scrive il Financial Times, ci sono tutti gli elementi per speculare. E oggi mi sembra che questo sia ampiamente presente sul mercato. Il Monte dei Paschi perde un altro 11% e scende a 17,8% per quello che riguarda il titolo. Ancora Popolare Emilia Romagna perde il 5,70%, il Banco Popolare il 4,60%, Unicredit il 4,40%, Pop Milano il 4,30%, anche Intesa San Paolo, che è la banca che di solito in queste settimane, mesi, si è più tenuta fuori, più in disparte, beh, oggi ne risente, meno 3,40%. Oltre a questo, tra i non bancari si segnala Telecom Italia, che perde il 4,5%, e poi invece torniamo sul fronte banche, assicurazioni: Mediobanca meno 3, Fineco Bank meno 3, Generali meno 2,80%. Il fronte opposto invece è rappresentato da pochi titoli, solo Terna più 1,12% tra quelle maggiori capitalizzazione, gli altri sono tutti invariati, perdono poco Fiat Chrysler meno 0,40% e gli energetici, devo dire che sono al di là di Eni meno 1,80%, gli altri sono più tranquilli. Ancora per quello che riguarda invece i titoli, parleremo anche di Telecom Italia, delle Generali. Oggi il Consiglio di amministrazione deve decidere per la conversione delle obbligazioni del Monte dei Paschi. Se li riuscisse a convertire tutte, il Generali salirebbe all'8% come quota nel Monte dei Paschi di Siena, che è la madre di tutte, diciamo, le sfide, anche se uno potrebbe obiettare che come peso sistemico è molto più importante UniCredit, ma i rischi in questo momento si concentrano le nuvole proprio sul Monte dei Paschi di Siena. E allora di quello parleremo, poi parleremo della pubblica amministrazione, perché voi sapete che abbiamo definito delle volte timida la riforma Madia, soprattutto criticavamo il fatto che mancassero i decreti attuativi, ma qua bisogna prendere atto che venerdì scorso, dopo il ricorso della Regione Veneto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della riforma Madia sulla pubblica amministrazione, nella parte in cui prevede che l'attuazione della stessa attraverso i decreti legislativi possa avvenire con il semplice parere della conferenza Stato-Regioni. Cosa dice la Consulta alla Corte Costituzionale? È che occorre un'intesa previa con tutte le regioni. La legittimità riguarda le norme relative alla dirigenza, alle partecipate, ai servizi pubblici locali e al pubblico impiego. Ora, su questo ci sono altri decreti in bilico, i provvedimenti sui furbetti del cartellino, sui dirigenti medici, sulle partecipate pubbliche. Ora, è chiaro che a questo punto anche questa riforma va in stallo, bisogna aspettare il 4 dicembre, data del referendum, ma soprattutto se, dopo la sentenza della Consulta, non se ne farà più nulla dei decreti che abbiamo commentato giovedì scorso, non c'è più tempo per ripresentarli, per cui si passa al dopo referendum. Il problema vero è che alcuni di questi decreti, a mio avviso, a nostro avviso, erano assolutamente utili. Penso a quello sui dirigenti a termine per 4 anni, solo se hai un vero incarico da dirigente, licenziabili. Sono tutte queste cose che noi chiediamo da tempo. Uno mi dice: ma la Regione Veneto ha fatto ricorso. Va bene, ma si riesce a fare una riforma della pubblica amministrazione o basta che qualunque regione, come prevede per carità la legge, alzi la mano e sia contraria a una limitazione delle sue funzioni, per esempio, o alle modalità utilizzate per bloccare tutto? Perché poi questo non me ne frega nulla in questo caso del referendum. Faccio notare che per riformare la pubblica amministrazione, che a mio avviso con la spending review è la riforma fondamentale dal punto di vista economico di questo paese, basta che alzi la mano una regione, dica che non è d'accordo e la Consulta dice che ha ragione. Per cui immaginare di mettere d'accordo tutte significa quantomeno allungare i tempi di qualunque riforma, anche perché va a toccare il ruolo delle partecipate, ci sono anche interessi, diciamo, delle regioni. Questo è il modo in cui, è al di là del referendum, il modo in cui non si riesce a fare una riforma del pubblico impiego. Ripeto, ci sono anche decreti che attendono, in particolare quello sui furbetti del cartellino, visto che molti di voi ci scrivono: ma voi fate la classifica venerdì ma non cambia nulla. Ma magari qualcosa si può cambiare con i decreti attuativi. E va bene anche questo. Di questo parleremo, dicevo, e faremo anche un commento, oltre che sulla riforma della pubblica amministrazione, sul Monte dei Paschi di Siena in senso stretto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora sì, qualcuno mi chiede: ma com'è possibile che il prezzo del Monte dei Paschi faccia 17,50 euro? Perché hanno accorpato, sarebbe 0,17,5, hanno accorpato 100 titoli, insomma, per fare riferimento con i valori fino alla settimana scorsa, immaginate che valga 0,17, che è un calo ulteriore rispetto ai 0,28, 0,30 a cui era sceso il Monte dei Paschi di Siena, che adesso comunque perde il 12,20%, quindi sta tornando al livello del 14% che ha conosciuto in mattinata. Allora, petrolio a 47 dollari al barile, anche qui indiscrezioni per cui l'Arabia Saudita vorrebbe delle condizioni ancora più stringenti dall'Iran, tanto per cambiare, sunniti e sciiti si confrontano, diciamo così, da sempre sul petrolio. Vorrebbe che Teheran congelasse la produzione a 3,8 milioni di barili al giorno. Poi, per quello che riguarda l'economia internazionale, già il nostro GR24 vi ricordava che Donald Trump ha twittato che se Cuba non vuole fare un accordo migliore per il popolo cubano, metterò fine all'accordo, quindi minaccia di revocare l'ordine esecutivo con cui Barack Obama ha avviato il dialogo con Cuba. Arriveremo anche a Draghi, perché introdurrà il nostro primo tema, quindi incertezze globali e incertezze sull'Italia per quello che riguarda il referendum. Invece avviciniamoci a questo tema tra un secondo, vuol dire anche previsioni dell'OCSE, commento del ministro Padoan e del premier Matteo Renzi. Vedo molti messaggi sulla riforma della pubblica amministrazione, vi arriviamo nella seconda ora del programma. E invece oggi ci sono ancora due dati che riguardano l'Italia. Uno è la fiducia dei consumatori misurata come ogni mese dall'Istat. Ancora resta stabile a 107,9 punti, era 108 a ottobre, scende lievemente il clima di fiducia delle imprese. Dopo tre cali, tra l'altro il clima di fiducia personale e quello, diciamo, corrente iniziano a coincidere. L'altro dato invece, sempre dell'Istat, che riguarda la natalità in questo paese. Ce ne siamo già occupati molte volte perché la demografia è un tema economico, anzi potrei dire forse prima di tutto economico e poi sociale, perché sappiamo che poi i flussi migratori, piaccia o non piaccia, vanno anche a intercettare in alcuni casi, non quando ci sono delle guerre, come nel momento attuale, anche una bassa natalità di molti paesi, in questo caso dell'area euro. Ma sappiamo soprattutto, lo dico in maniera molto tranquilla, che il tema della demografia e quindi della natalità non è un tema solo culturale, men che meno religioso, è in primo luogo un tema economico, cioè di politiche sociali, economiche per la famiglia. Lo dico col massimo rispetto verso il mondo cattolico, che ha pure una fortissima presenza nel Parlamento italiano e quando vuole, diciamo, si fa sentire. Mi resta inspiegabile, a partire dal mondo cattolico, ma anche, diciamo, chi cattolico non è, perché con tutta la retorica che si fa sulla famiglia in questo paese, la famiglia prima che esista, chi può fare figli, chi può abortire, chi non può avere figli, la retorica che si fa sul fine vita, no l'eutanasia, no l'eutestamento, tutto quello che volete, però nessuno si occupa mai del durante di sta cavolo di vita, e cioè di cosa succede a quando una famiglia ha già un figlio o vorrebbe farne un altro, perché tutti i dati che noi vediamo a livello europeo dimostrano un'unica cosa, che laddove ci sono politiche per la famiglia già esistente o comunque per la famiglia in fieri, il tasso demografico va sopra quel famoso rapporto del 2,1 che segnala che ci sono più nati che morti. Mi riferisco alla Francia e all'Alto Adige e al Trentino Alto Adige in Italia. Non sono variabili culturali, non è che fanno più figli cattolici, meno i laici, sono in molti casi, certo che ci sono anche variabili culturali, variabili economiche. Si riuscirà in questo Parlamento ad avere, a partire dai partiti che sbandierano sempre la loro appartenenza al mondo cattolico, i valori della famiglia, a fare una battaglia, per esempio come hanno fatto sulla procreazione assistita, sul quoziente familiare? Che vuol dire semplicemente che se tu sei single hai una tassazione, se sei padre magari o madre, ci mancherebbe, monoreddito o con due redditi di tre figli, avrai una tassazione che prende atto di questo come sgravi fiscali veri? Ci sarà mai una politica per la famiglia in cui, come in Francia, puoi detrarre per i primi anni di vita del bambino la babysitter dal tuo stipendio? Hai dei permessi veri? Hai degli obblighi in qualche modo le aziende ad avere delle convenzioni con gli asili o avere gli asili nido in primo luogo dentro il luogo di lavoro, così una madre non deve decidere se fare carriera e lavorare o una donna non deve decidere se fare carriera e lavorare o essere madre, visto che tanto il carico la maggior parte sulle donne. Ecco, io vorrei che anche il mondo cattolico, un appello, oltre che occupasse dell'etica, si occupasse anche, non voglio essere volgare, ma si occupasse anche di cose più prosaiche, ma che sono quelle che poi spingono una famiglia, cattolica o non, a decidere se fare i figli. Questo brevissimo pippotto solo per dire che anche oggi l'Istat fotografa nel 2015 un calo brusco e continuativo delle nascite in questo paese, meno 17.000 nati nel 2015, meno 95.000 quando sono genitori italiani negli ultimi 7 anni. E tra l'altro notiamo, poi ci sono anche altri dati di carattere più sociologico, cioè il fatto che nel nord del paese ormai un nato su tre sia nato non da una coppia sposata. Però per favore, adesso ascoltiamo i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, a firma del vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Arioli. Meno ideologia, meno etica, meno religione e più schei per le famiglie che vogliono o hanno già dei figli. Solo così

than before the crisis. Anche se la crescita sarà più lenta rispetto a prima della crisi, ci aspettiamo che l'economia globale continui la sua ripresa. Economia globale che sta affrontando significative incertezze economiche e politiche. La nostra politica monetaria non può essere l'unico gioco in città. Non può sostenere da sola una crescita equilibrata e sostenibile. Nel 2016 l'economia dell'Eurozona ha dimostrato di essere resiliente e continua a un passo moderato ma costante, nonostante le conseguenze avverse dell'incertezza economica e politica a livello globale. Ci attendiamo che la tendenza al graduale miglioramento continui, non ultimo grazie alle nostre misure di politica monetaria. Allora, andiamo avanti. Vedo moltissimi messaggi sul tema della famiglia, poi vi arriviamo, magari riapriamo il tema. Invece vorrei sentire ancora Draghi sull'Unione Europea, che è una casa costruita a metà, non è stabile, sia anche per gli abitanti ricchi, aggiungo io. E poi servono risposte collettive sulla Brexit, ha aggiunto Draghi, bisogna avviare il negoziato il prima possibile. I am aware that the attention of our policymakers has shifted. Sono consapevole che l'attenzione di coloro che decidono le strategie politiche si è spostata. Subito dopo la crisi finanziaria, il bisogno di completare l'unione economica e monetaria è salito al primo posto nel dibattito europeo. Da allora il contesto è cambiato. Oggi l'attenzione europea è più sulla sicurezza. Entrambi i progetti richiedono che l'Europa resti unita per agire insieme. Tuttavia, non dimentichiamo che l'Europa proteggerà meglio se stessa se la sua economia è più forte. Per arrivare a questo, l'unione economica e monetaria dovrà superare la vulnerabilità che deriva dalla sua incompletezza. Una delle lezioni importanti della crisi è che una casa costruita a metà non è stabile, è fragile. A half-built house is not stable, it's fragile. Allora, Lorenzo Codogno, di nuovo in collegamento con noi da Londra, ero riuscito a usarlo veramente poco, usarlo nel senso avere la sua opinione, veramente poco, venerdì scorso, buonasera di nuovo. Pronto? Buonasera a tutti. Allora, ricordo sì, che buonasera a tutti. Adesso la sentiamo bene anche noi, ricordo che lei è già stato capo economista del Ministero del Tesoro e adesso è visiting professor alla London School of Economics e poi fondatore dell'LC Macro Advisor, dove penso che essi stia per Lorenzo Codogno, non ci vuole un genio per arrivarci. Codogno, resti con noi perché io vorrei, dopo il meteo, far ascoltare il commento, diciamo, di Renzi al Financial Times. Però insomma siamo assolutamente sul pezzo, perché dopo Financial Times, Wall Street Journal, Economist, oggi di nuovo il Financial Times a dire le banche rischiano di fallire, le banche italiane se Renzi perde il referendum. Io temo che poi diventino, per usare un inglesismo, self-fulfilling prophecies, cioè più continuiamo a dirle e a prevederle più si avverano queste cose. Però vorrei sentire la sua opinione dopo il meteo e la pubblicità. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. L'articolo Financial Times è un articolo che mette insieme tante cose, forse a lunedì non avevano altre cose da dire. Le banche citate dall'articolo Financial Times sono casi ben noti, non c'è nessuna nuova notizia, sono casi diversi che vanno trattati con prospettive diverse. In ciascuno dei casi, in alcuni casi riguardano più di una banca, è ovvio, ci sono problemi diversi che richiedono strategie specifiche. Queste strategie sono già in via di implementazione, a diversi stadi di implementazione. In alcuni casi l'implementazione è talmente avanzata che siamo in fase di conclusione. Quindi ciascuno di questi casi si gestisce in qualche modo da solo, perché il management delle banche coinvolte, con il sostegno delle assemblee degli azionisti, hanno già deciso e deliberato piani di aggiustamento. Allora, tra l'altro nell'articolo del Financial Times in prima pagina c'è un'intervista proprio a Lorenzo Codogno, lo dico, che è il nostro ospite oggi, Le banche citate, dottor Codogno, sono Monte dei Paschi di Siena e poi Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Cassa di Risparmio di Genova e le quattro banche, le banche salvate, Etruria, Chieti, Ferrara e Marche. In effetti, a questo punto di vista, non è che abbia fatto lo scoop del secolo il Financial Times, ma a me interessa, al di là della battuta del ministro Padoan, non avevo un altro da scrivere, interessa capire questa tensione quanto, diciamo, è speculativa, perché oggi c'è anche chi ha detto attenzione anche con Brexit, l'ho detto anche Draghi, anche con la Brexit e Trump ci attendevamo chissà che cosa, poi la speculazione è durata poco. Quanto è speculazione puro o quanto invece ci aspetta un periodo nero, vista anche la volatilità dei mercati, l'estrema liquidità e il fatto che molti possono scommettere anche allo scoperto? Prego. Ma innanzitutto devo dire che il ministro ha ragione, non ci sono novità, non ci sono informazioni aggiuntive nell'articolo. Peraltro l'articolo va interpretato come il giudizio del giornalista che l'ha scritto, quindi non è un indicativo di un giudizio diffuso a riguardo. Infine, secondo me va detto che forse ha avuto così tanta rilevanza perché effettivamente vi sono preoccupazioni a livello internazionale sull'evento referendario in Italia. E questo per un motivo molto semplice, perché per risolvere i problemi delle banche, sappiamo che ci sono delle situazioni di fragilità, è necessario una certa stabilità politica, perché è ovvio che se le cose dovessero andare male, se alcune operazioni che sono già state annunciate non dovessero andare come previsto, non resterebbe altra scelta se non un intervento pubblico. E questo è ovvio che può avvenire soltanto se c'è un governo in carica e se c'è una situazione politica stabile. Allora, non voglio girarci attorno, però alcuni ascoltatori dicono, mi scusi, ma non è che questa sia una specie di ricatto, cioè... Lo abbiamo visto anche con la Brexit e con Trump, ma in questo caso parliamo del nostro referendum, al di là di come uno la possa pensare, se votare sì o votare no. Io ho detto molte volte che dal punto di vista dell'economia vera e propria, cioè della congiuntura economica, non so cosa ne pensa lei, Codogno, ma non è sbagliato legare le prospettive dell'economia a breve, 2017, l'esito del referendum. Altra cosa però è non rendersi conto, non ammettere che questo referendum sta aprendo le praterie della speculazione sull'Italia, cioè si va a scommettere e sappiamo che la speculazione adora le scommesse e quindi un effetto c'è già stato. Però quanto è ingerenza? Nel senso, quanto è... Perché la sensazione delle volte è che, non dico che siamo all'ingerenza, ma che ci sia una pressione esterna, sì. Oppure invece una speculazione normale dice no, non è ingerenza, semplicemente con un rischio politico così alto l'Italia si è esposta alla speculazione. Ma io non parlerei né di ingerenza e nemmeno di esposizione alla speculazione. Allora teniamo presente che queste banche stanno per annunciare aumenti di capitale, di fatto chiedono quattrini agli investitori internazionali. E quindi mi sembra assolutamente normale che gli investitori internazionali si preoccupino per la stabilità politica e per la situazione di queste banche. Lo stesso ovviamente vale per il paese nel suo complesso. Nella misura in cui un operatore emette debito o chiede capitale sotto forma di nuove azioni, è ovvio che si espone ad un giudizio esterno e quindi deve essere trasparente e deve giocare le regole del gioco, cioè deve dare le informazioni necessarie, le garanzie necessarie che servono agli investitori internazionali, non solo internazionali ma ovviamente anche italiani, per investire in queste offerte. Allora, poi ci abbiamo messo del nostro anche noi, perché abbiamo spesso criticato il messaggio che è arrivato dal governo in questo caso, dopo il sì, se vincono i no, il diluvio. Legare, errore clamoroso, il legare la permanenza, diciamo, al governo da parte del Presidente del Consiglio sulla base della vittoria del sì o del no, perché errore clamoroso non perché interessi altro, ma perché così nessuno vota o si rischia di non votare sul tema del referendum, piace o fa schifo sta riforma costituzionale e votare solo sì o no a Renzi. Errore clamoroso che lui stesso ha riconosciuto. Però dico, ci mettiamo nel nostro anche noi, il Monte dei Paschi di Siena nel prospetto informativo scrive: l'eventuale contratto di garanzia che le banche del consorzio dovessero firmare con Monte dei Paschi potrà essere risolto in caso di mutamenti della situazione politico-economica finanziaria in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E cioè, se cambia lo scenario politico in Italia, è a rischio il consorzio che deve garantire l'eventuale inoptato, cioè deve garantire l'aumento di capitale in generale. Non abbiamo messo anche noi troppa enfasi su sto referendum dal punto di vista della tenuta finanziaria del paese, non dell'importanza che ha, altissima, sulla Costituzione. Oggi Renzi dice: il sistema istituzionale italiano ha molti elementi di garanzia, un governo c'è sempre, politico, tecnico, iperpolitico, ipertecnico, cioè quasi gettare acqua sul fuoco. Ma non abbiamo creato anche noi un eccesso di sovraesposizione, di sovrattesa? Forse sì, diciamo che è ovvio che in una situazione di fragilità come quella di alcune banche in Italia vi è preoccupazione da parte di investitori internazionali e vi è anche ovvio che forse abbiamo contribuito anche noi intendo dire commentatori italiani. Detto questo, io l'ho anche scritto sul Sole. Secondo me il legame tra stabilità politica e stabilità finanziaria è molto forte in questo momento, semplicemente perché il governo è tenuto a intervenire nel caso in cui ci fosse la necessità di farlo. Cioè lei dice se butta male quindi, su Monte dei Paschi in primis, no? Esattamente, quindi è chiaro che in questo momento l'attenzione è forte per questo motivo. Non per altro. Un'ultima domanda. Noi ci occupiamo sempre del Monte dei Paschi di Siena, adesso lo faremo anche nel corso del commento di borsa. Però cioè, la vero grande aumento di capitale, è vero che una banca messa in maniera completamente diversa, ma chiederà almeno 10 miliardi è Unicredit. Il Monte dei Paschi è solo la punta dell'iceberg? Ma diciamo il Monte dei Paschi è l'operazione più grossa. Ed è quella che è assolutamente necessaria, perché il Monte dei Paschi non ha passato gli stress test della Banca Centrale Europea. Quindi è chiaro che il Monte dei Paschi non ha alternative se non quella di aumentare il capitale e di fare quell'operazione molto complessa che è stata annunciata. Altre banche non sono nella stessa situazione, hanno molte opzioni e quindi possono scegliere se fare un aumento di capitale, se vendere alcuni asset, se fare altre operazioni, quindi non sono sotto pressione per così dire. Quindi il Monte dei Paschi effettivamente è la situazione più delicata che può generare tensioni anche su potenziali altre operazioni. Però il Monte Paschi è l'unica banca che ha strettamente necessità di capitale in questo momento. Allora rispondo io invece a alcuni ascoltatori che dicono: ma chi ci guadagna? Beh, ovvio che tu vai a scommettere adesso che vincano i no, alla luce di quello che ha appena ricordato anche Codogno, ti poni in un'ottica di turmoil, di agitazioni poi finanziarie il giorno dopo e sei un ribassista, cioè scommetti che il mercato andrà ancora peggio o meglio lo spread salirà ancora e il mercato andrà ancora peggio e in quel caso ci guadagni. Se speculi diciamo su un'ulteriore complicazione della situazione italiana, oppure puoi speculare sul fronte opposto, pensare che invece vinceranno i sì e posizionare. Da quello che vedo oggi in borsa, Monte dei Paschi ha perso il 14%, mi sembra che stiano prevalendo come mercato, non è un'indicazione di voto visto che siamo in piena par condicio. Il mercato reputa che il rischio Italia stia aumentando, cioè che il rischio che vincano no dal loro punto di vista si crei instabilità politica e soprattutto non si sappia se un governo è pronto a intervenire nel caso Monte dei Paschi non riuscisse a fare l'aumento di capitale, il mercato lo sta non dico sposando, ma ci scommette di più, perché altrimenti non si capisce perché il Monte va giù dai 14, Popolare Emilia del 6,60, Banca Popolare, noi siamo la peggior borsa oggi a livello europeo e lo spread è a 192. Un'ultima domanda però, è la veramente l'ultima, riguarda la stampa britannica e anglosassone in generale, perché Financial Times già aveva scritto con il suo editorialista Wolfgang Münchau lo scorso 21 novembre addirittura in dubbio che l'Italia possa restare nell'area euro, mi sembra un po' una sparata, però se vincono i no. Però l'Economist e anche il New York Times ha detto attenzione, l'Italia è potenzialmente una minaccia, dopo vedremo cosa succederà dopo il referendum, Wall Street Journal analogo. L'Economist però ha detto no, insomma non cambia niente, se vincono i no cade Renzi, c'è un governo tecnico, non sarà un dramma, lui ha buttato via 2 anni, ora servono riforme vere. Questa diversità di opinione, al di là della libertà della stampa anglosassone, non dimostra anche che insomma la lettura non è univoca? Assolutamente sì, ovvero sia questi articoli rispecchiano il punto di vista dei giornalisti che li hanno scritti, non la posizione del giornale. Nel caso dell'Economist forse ha indicazioni anche sulla posizione del giornale, però lo stesso Economist ha giornalisti che hanno scritto articoli di segno opposto, quindi diciamo sono punti di vista che vanno presi come tali. Quindi secondo me forse è anche eccessivo lo spazio, l'attenzione che viene data in Italia a questi punti di vista che valgono come altri punti di vista e come punti di vista di giornalisti o di opinionisti italiani. Quindi non darei eccessivo spazio a questo. Quello che va però rilevato, e lo dico con chiarezza anch'io, è che a livello internazionale c'è molta preoccupazione in questo momento. E il livello di attenzione, il numero di articoli che stanno uscendo dimostrano che effettivamente c'è una preoccupazione a livello internazionale. Sì, devo dire che non è azzeccata una il Financial Times e neanche l'Economist sia su Brexit che su Trump, per cui questo però a chi mi dà delle spiegazioni politiche automatiche invito a essere un po' più prudenti. Per esempio, noi abbiamo letto che se dovessero vincere i no, ma di stretta misura, Renzi potrebbe andare alle elezioni anticipate perché comunque sarebbe una vittoria, e quindi non è detto che le elezioni anticipate, addirittura che se vincessero i sì di larga misura vi sarebbero comunque le elezioni anticipate, cioè non mi sembra, Codogno, che vi sia una lettura unica così automatica, vincono i no e quindi arriva lo tsunami finanziario, perché dipende come vincono i no e come vincono i sì. Sì, direi soprattutto dipende dalla risposta subito dopo il referendum, perché se il Presidente della Repubblica trova immediatamente una soluzione utile a una eventuale crisi di governo... C'è un governo tecnico, dice lei. ...se la vicenda si chiude in pochi giorni, no? Non necessariamente un governo tecnico, se la vicenda si chiude in pochi giorni con un nuovo governo, penso che anche le tensioni sui mercati finanziari si risolveranno in pochi giorni. Se invece questo aprisse una fase di incertezza e di crisi più duratura, allora a quel punto lì sì che le tensioni potrebbero diventare più profonde, più duratura. Quindi se ci fosse anche un governo tecnico immediatamente, o una soluzione diciamo politica, un governo di larga intesa, subito dopo si placherebbero le speculazioni. Altra cosa invece, se restando pure in carica questo governo, la sensazione fosse che andrà ad elezioni a breve, per via appunto dell'esito del referendum. Ripeto, non è solo se vincono i sì o vincono i no, è anche la proporzione delle vittorie dell'uno e della vittoria dell'altro. Sono in ritardo col traffico, ringrazio molto Lorenzo Codogno in collegamento con noi da Londra. Traffico, poi Monte dei Paschi, borsa e riforma Madia bloccata dalla Consulta. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, iniziamo a affrontare il tema di borsa, che chiaramente si lega ai rischi sull'Italia. Ripeto, io nell'articolo del Financial Times non ho trovato tutta questa grande... Lo dico con massimo rispetto per i colleghi anglosassoni, ma non è che mi senta così... Ha citato 8 banche, di cui parliamo da 2 anni, si chiama Rachel Sanderson da Milano. Bravissima, si poteva andare anche un po' oltre nell'analisi, forse, se deve aprirci la prima pagina del giornale lunedì. Mi permetto di dirlo da collega a collega, possiamo dire questo. Come analisi, anche perché mettere assieme Monte dei Paschi e non citare Unicredit, ma citare le 4 banche che ormai si sono presi i soldi del Fondo Atlante, non mi sembra quello il problema, ecco. Marco Ferrando, buonasera. Buonasera a voi. Allora, dammi il titolo, poi dopo la GR24 parliamo del resto. Meno 14% quasi Monte dei Paschi oggi. Sì, meno 14 nel primo giorno di conversione dei bond. Evidentemente il clima è quello avviato dal Financial Times. Mancano 5 giorni al referendum, c'è una percezione sempre più forte del rischio Italia e le banche ne fanno le spese, in particolare il Monte dei Paschi. Anche se bisogna dire oggi non tutte le notizie sono cattive, visto che Generali ha detto che convertirà i suoi 400 milioni. È arrivata la conversione, milioni. Quindi andrà esatto. all'8% nel capitale del Monte dei Paschi. Sempre subordinato a una serie di condizioni, ma l'ok c'è. Allora, ne parliamo dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa, tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, io capisco tutto, però capisco anche il livello dello scontro politico sul referendum, però non abbiamo fatto un commento sui contenuti perché non ne parlo, siamo in par condicio. Ma non è che possiamo ignorare il fatto che lo spread va a 194 e tra l'altro abbiamo criticato il governo nella persona del Presidente del Consiglio nell'aver legato al suo futuro politico l'esito di un referendum che è costituzionale. E nell'aver caricato anche il governo, quindi anche tutto il fronte del sì, di un eccesso di significato sul fronte economico, a nostro avviso sbagliato nell'economia, soprattutto reale a breve termine, l'esito di questo referendum. E abbiamo detto che tutto questo, che ci abbiamo messo anche del nostro noi nell'alimentare questa idea che i mercati stanno sposando per motivi un po' reali, vedi il caso degli aumenti di capitale, chi li dovrà fare se c'è un, diciamo, una crisi politica, è un po' speculativo perché c'è molta liquidità e si va a posizionarsi magari scommettendo che vinceranno i no, che vi sarà crisi in Italia e vai a prendere posizioni corte ribassiste. Dov'è che abbiamo tirato la volata al governo sul sì? Cioè, questo è un dato di fatto che oggi anche oggi i mercati penalizzano l'Italia. L'indice italiano perde l'1,80%, Parigi perde lo 0,80%, Francoforte l'1%, Londra lo 0,60%, che poi sia speculazione, sono il primo a dirlo, nel senso che poi non vi sia un legame stretto o così stretto tra esito del voto, che vincano i sì o che vincono i no, e quello che capiterà alla nostra economia, sono d'accordissimo, però il dato di fatto è che la speculazione, un po' perché gli abbiamo fornito noi autostrade e un po' perché... lo fa d'abitudine, si sta muovendo su questo tutto qua. Ma dov'è, diciamo, il legame, o dov'è, diciamo, la propaganda, come scrivono alcuni, a favore di un voto piuttosto che dell'altro? Bravo. Restiamo su Monte dei Paschi. Allora, il timore, Marco Ferrando, il titolo vale 17,24 euro perché hanno accorpato 100 azioni per un titolo dopo la conversione delle subordinate. È praticamente come se fosse 0,17 di prima, questo per capire dove siamo arrivati con Monte dei Paschi. Male anche Popolare Emilia Romagna meno 6,60, Banco Popolare meno 5, Pop Milano meno 5. Restiamo sul Monte, magari poi con un contesto Unicredit, prego. Sì, dicevamo che oggi alle 2 si è aperta la finestra di 5 giorni, in realtà 4,5 per la conversione dei bond, quindi è entrata nel vivo l'operazione di ripatrimonializzazione. Il titolo, come dicevi, è andato giù, in realtà come era andato settimana scorsa, speculazione, riposizionamento, poi il titolo ormai è talmente sottile che veramente basta poco per muoverlo e anche il significato di questi movimenti è difficile da ricondurre alla sostanza delle cose. Come accennavamo dicevamo prima, in realtà le novità di giornata sono due. La prima è buona, perché Generali è buona per le sorti dell'aumento del monte, perché Generali ha fatto CDA e ha deciso che tendenzialmente loro convertiranno i 400 milioni di subordinati che hanno in pancia. È evidentemente positiva perché da un lato porta a casa pur virtualmente quasi il 10% dell'operazione, che in totale vale 5 miliardi, ma soprattutto perché è un precedente che magari altri istituzionali potrebbero seguire. Evidentemente se Generali converte, una convenienza c'è, e non solo per evitare il peggio, cioè risoluzione, che potrebbe essere lo scenario in caso di fallimento dell'aumento di capitale. L'altra novità di oggi è il prospetto, quindi l'ennesimo faldone pubblicato in occasione di questa operazione. È il prospetto pubblicato appunto quello dal che Monte, citavamo prima, che tira in ballo esplicitamente è la situazione politica in Italia, perché dice addirittura che le banche di garanzia, quelle che devono garantire l'aumento di capitale, casomai comprasse l'inoptato, quello che nessuno sottoscrive, potrebbe sciogliersi questo consorzio in caso di instabilità politica. Per cui non è che siamo noi a dirlo, lo scrive Monte dei Paschi nel suo prospetto, prego. Sì, lo scrive ed è anche noto ormai da giorni, nel senso che da subito le banche del consorzio di garanzia, firmando il pre-underwriting, cioè la pre-sottoscrizione, hanno detto che la situazione di mercato, con tutte le possibili cause, vedi ad esempio la situazione politica, potrebbe essere giusta causa per ritirare la garanzia. Quindi lunedì 5 dicembre all'alba ci sarà la prima riunione tra JP Morgan, Mediobanca e le altre banche del consorzio di garanzia. Vedranno come è andato il voto, vedranno qual è la reazione dei mercati, inizieranno a telefonare a potenziali investitori e decideranno. Allora, su questo mi sembra che anche la lettura, Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, la lettura del resto della borsa sia abbastanza analoga. Io non legherei tanto al Financial Times, che scopre l'acqua calda, ma spread, aumento delle tensioni, e la speculazione va a vendere se pensa che tutti gli altri venderanno, perché chi prima vende più ci guadagna, lo dico, ma è molto banale. Guido. Sì, succede un po' questo. Oggi abbiamo visto come vada a colpire in particolare le banche. Secondo me c'è anche un po' un effetto, il rischio di un effetto contagio che qualcuno oggi ci raccontava, cioè nel momento in cui dovessero andare male le cose sul salvataggio di Monte dei Paschi, il rischio è che a cascata tutto vada a coinvolgere il sistema bancario, e questo fa sì che anche tutti gli altri istituti, oggi in particolare gli ex istituti popolari, eccetera, abbiano perso il 5-6%. Sì, e questo è generalizzato. Dopodiché alcuni mi scrivono, ma il Monte dei Paschi aveva perso tantissimo anche prima del referendum. Non c'è dubbio, cioè non c'è dubbio che il problema del Monte dei Paschi sia tutto tranne che il referendum. Il problema del Monte dei Paschi è che l'ha bocciato la Banca Centrale Europea negli stress test, e da lì è partito di nuovo la necessità di trovare 5 miliardi per l'aumento di capitale. Questo è il problema del Monte dei Paschi. Il referendum non c'entra niente. Che poi l'incertezza politica che ne può derivare venga usata come spunto, come scusa per andare a vendere, o anche non scusa, secondo alcuni sarebbe più difficile. Però prima Lorenzo Codogno spiegava molto chiaramente che dipende, perché se dopo il referendum, nel caso anche di un nuovo governo, ce l'hai subito il nuovo governo, e magari di grande coalizione che hanno a sua forza, i mercati si placherebbero a breve. Per cui attenzione alle letture facili, così come non me ne frega nulla di sapere ma vogliono spingerci da fuori a votare sì. No, uno vota quello che pensa, non deve c'entrare nulla la finanza in questo caso. La speculazione si fa come e si fa proprio prima della notizia, si dice in inglese buy on the rumors and sell on the news, cioè vai a comprare sulle voci e vendi sulla notizia, per cui la speculazione da sempre si muove così. Nel ringraziare Marco Ferrando, che tanto ho capito rivedremo dal 5 in poi, Marco, immagino, perché oggi come oggi nei prossimi giorni al massimo potranno avere una fotocopia di quello che stiamo vedendo, ma non ci saranno grosse. No, in settimana dimmi. Potrebbe esserci un bilancio dell'operazione sui bond. È chiaro che se il Monte si avvicinasse al referendum con in tasca potenzialmente un miliardo e mezzo di bond convertiti, sarebbe già una buona cosa. Una buona cosa. Si potrebbe sperare che non dipenda tutto dal referendum. Cioè, e riduci la percentuale che devi cercare la quota che devi cercare sul mercato per l'aumento di capitale. Grazie, dicevo, anche a Marco Ferrando. Guido Marino, al di là delle banche che abbiamo ampiamente, insomma, il taglio è abbastanza chiaro. Telecom Italia perde il 4,30%, E questo insomma spicca, perché tutti gli altri cali, oltre alla Pop Milano, Unicredit -4,5, Intesa -3,20, Mediobanca -2,90, Mediaset -2,70, UBI -2,60, sono tutti cali bancari. Telecom. Sì, per quello che riguarda Telecom non ci sono notizie particolari, però abbiamo visto anche in passato come Telecom spesso risenta di avendo un debito molto alto, di quelli che possono anche essere gli spread e i rendimenti. In questo caso abbiamo visto, e poi dobbiamo sempre considerare che comunque Telecom arriva da un periodo, diciamo, abbastanza positivo, se lo guardiamo come l'andamento delle ultime settimane. Quindi un po' di presa di beneficio, una giornata non particolarmente positiva, un po' di maggiori tensioni che abbiamo visto sullo spread spiegano in gran parte questo calo. Mentre l'euro è di nuovo 1,05, invece Terna più 1%, Italgas che era positiva, c'è qualche motivo? Jux Net-a-Porter più 0,20, ma lì sarà il Black Friday, immagino. Sì, allora per quello che riguarda Jux è un po' l'andamento del Black Friday molto positivo, in più il fatto che la società ha annunciato questa mattina di aver siglato un accordo per una joint venture in Medio Oriente, che quindi apre nuove prospettive al gruppo. Per quello che riguarda le utility, si tratta di titoli difensivi, in una giornata di tensione sui mercati, l'abbiamo visto anche su altre società europee, a partire da E.ON, Engie a Parigi, eccetera. Le utility sono stati i titoli preferiti dagli operatori, è stato così anche a Milano, in particolare su Terna che ha guadagnato l'1,07%, c'erano altre utility positive a partire da A2A e Snam, che invece hanno frenato poi sul finale. Allora, migliori e peggiori in assoluto, oggi Gala più 9%, Leone Film Group più 6,40%, Ratti più 5%, Eukedos più 4,90%, fronte opposto chiaramente Monte dei Paschi meno 13,80%, molto male anche Stefanel meno 11,70%, Casse di Family di Genova meno 9%, Landi Renzo meno 7%, Credito Valtellinese meno 7%, Grazie e Lazzucchi meno 7%. Grazie anche a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Visto che qua continuate a scrivere, io non posso fare tutta la puntata rispondendo al fatto che all'analisi di quello che sta capitando sui mercati, da un lato, come dicono i ragazzi, ci sta, perché abbiamo riempito di significato finanziario, economico, politico questo referendum, dall'altro è speculazione. Però vorrei dire che esistono anche strumenti più sicuri. Investite, o se uno vuole investire, io personalmente investirei in Pecorino Bond. Pecorino Bond che è? Pecorino Bond, anni fa parlammo della possibilità che il mondo del vino emettesse delle obbligazioni, delle azioni. E male che vada, esiste già in Francia, si fanno i futures, le vendite en primer sul vino, male che vada uno solo beve, che è un po' più difficile con le azioni. Ecco, il Pecorino Bond, male che vada uno solo mangia, perché si va verso la quotazione all'Extramot Pro della Borsa Italiana, dedicato appunto alle obbligazioni, del Pecorino Bond. È, non sto scherzando, un'operazione molto interessante anche di finanziamento. È lo strumento finanziario lanciato lo scorso giugno dalla Regione Sardegna e dalla Sfirs, che è la finanziaria regionale, grazie alla consulenza di BSI Merchant. Sostanzialmente sono oltre 40 produttori di pecorino sardo che si sono candidati a entrare nel paniere di aziende agroalimentari che metteranno mini bond a 24 mesi per sostenere la propria crescita, affidandosi appunto a uno strumento come quello della richiesta di soldi attraverso un'obbligazione, che è alternativo al canale bancario. E poi adesso si va alla selezione, entro dicembre vi sarà la società veicolo che sottoscriverà i mini bond emessi da un massimo di 10 aziende tra le più importanti del settore di queste aziende operanti in Sardegna. Chissà che non sia la prepista per altre forme di finanziamento nel nostro settore agroalimentare e vitivinicolo, che va benissimo, che è in crescita come fatturati e che ha prospettive bellissime. E ripeto, male che vada, poi uno pecorino bond lo porta a consegna, se lo magna, non so quanto è male non fa. C'è qualcuno che mi scrive: io voglio investire i banchieri. No, io parlavo di investimenti, diciamo, di carattere finanziario, traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Oh, finalmente un po' per par condicio, dopo decine di insulti per essere lecca, diciamo, del governo, filo renziano, servo del potere, servo della Confindustria, servo dei padroni, Leporello, chiamatemi Leporello a questo punto, finalmente arriva un SMS che mi dà invece del servo opposto. Soltanto tu potevi non capire l'importanza per il sistema paese e quindi per l'economia del referendum e della vittoria del sì. Infatti chiunque si guadagni veramente il pane in questo paese vota sì, lo dice lei, è un sondaggista immagino. Giustamente Confindustria si schiera per il sì, il conduttore idiota continua a dire che se vince no non accade nulla, sperando però in un governo tecnico veloce. Sei proprio una capra, spero veramente che ti sostituiscano con qualcuno che capisce qualcosa di economia reale. Ecco, al di là dell'ultimo appello, va bene così, insomma, adesso sono uno che tira la carretta per il no. Abbiamo detto una cosa un po' diversa, non è che possiamo ripetere ogni puntata, che sull'economia reale a breve come prospettiva del PIL non c'entra nulla un referendum che fa la riforma costituzionale. Poi uno può pensare che sia giusto ridurre il ruolo delle regioni e ridurre il ruolo del Senato, oppure che sia sbagliata la riforma, ok? E ridurre soprattutto nelle regioni i momenti in cui c'è contrapposizione Stato-Regioni, visto che adesso ne parliamo. E uno può pensare che sia invece una porcata, va bene. Della finanza abbiamo detto che abbiamo fornito noi molti elementi, a partire da quello che disse il Premier, cioè me ne andrò se perde, se vinco di no, per creare instabilità politica, e su questo c'è speculazione, cioè c'è una parte di verità, visto come abbiamo messo, come abbiamo alcune banche messe male, e poi una parte di speculazione. Io non so veramente dov'è che ho tirato in questo caso la carretta per il no, ma va bene, diciamo che ho due carrette, una per il no e una per il sì. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. A proposito di conflitti Stato-Regioni, che cosa è successo? Avevamo appena fatto tempo, io sono a favore della riforma della pubblica amministrazione, ritenevo troppo timida la riforma Madia, aspettavamo i decreti attuativi, arrivano giovedì i decreti attuativi che devono iniziare a rendere operativa sta riforma a partire dai dirigenti della pubblica amministrazione. Il pesce se puzza, puzza dalla testa, e quindi 4 anni, poi ti viene rifinito l'incarico, sei dirigente solo se dirigi. È arrivato il ricorso della Regione Veneto, gli ha dato ragione la Corte Costituzionale, ha detto non si può fare l'attuazione della riforma Madia senza l'accordo di tutte le regioni, non basta diciamo sostanzialmente arrivare a un parere della conferenza Stato-Regioni. Tra l'altro erano le norme relative proprio alla dirigenza, alle partecipate, ai servizi pubblici locali e al pubblico impiego. Siccome su 8.000 partecipate in questo paese ce ne sono 3.500 che neanche presentano i bilanci, io non so quante siano in Veneto, ma ce ne sono anche in Veneto, è chiaro che andare a toccare le partecipate, che sono una cassa di scambio elettorale, soprattutto quelle che non funzionano, perché se no si capisce perché le tieni, e può stimolare gli appetiti. Io non voglio dire che sia questo il motivo della Regione Veneto, voglio solo dire che quando tocchi fonti di potere, questo è quello che va incontro. Domani ne riparleremo con te. Che cosa c'è in bilico oltre alla riforma Madia? Perché se ho ben capito, anche quello sui decreti sui furbetti del cartellino, sui dirigenti medici e sulle partecipate rischiano? Sì, rischiano, nel senso che sono teoricamente in vigore, ma sono esposti a qualsiasi tipo di ricorsi da parte, per esempio, di un tribunale in cui si arriva alla contestazione del licenziamento, si solleva il tribunale la questione legittimità costituzionale, e fino a che non ci saranno i correttivi che rinforzano la riforma, la Corte Costituzionale difficilmente potrà dire qualcosa di diverso da quello che ha detto nella sentenza di giovedì, cioè che l'iter con cui si è arrivato al decreto sui cosiddetti furbetti del cartellino è incostituzionale. Idem per quel che riguarda i dirigenti medici, la riforma dei dirigenti medici, quella che va sotto la bandiera di togliere, diciamo così, l'influsso della politica dalla scelta dei dirigenti medici, lì la cosa è ancora più curiosa, perché c'è un verbale della conferenza unificata in cui c'è scritto che gli emendamenti alla riforma erano stati concordati con le regioni, però la forma, diciamo così, era sempre quella del parere, non quella dell'intesa, e quindi anche questo rischia. C'è poi ancora da scrivere il testo unico del pubblico impiego, la riforma delle regole del lavoro pubblico. Lì bisognerà, c'è tutto il tempo, diciamo così, per fare l'iter giusto e arrivare all'intesa con le regioni. L'intesa si ha quando tutte le regioni sono d'accordo, ma naturalmente il cammino diventa più difficile, e a quel testo unico sono appese anche le sorti del rinnovo dei contratti degli statali, su cui governo e sindacati torneranno a vedersi mercoledì. Guarda, Gianni, ne riparliamo domani con te, perché abbiamo detto che per l'economia più volte, più che la riforma della Costituzione, serve una spending review fatta seriamente, e quindi anche, perché viaggiano in parallelo, una riforma della pubblica amministrazione, aggiungiamo anche del diritto civile per chi investe, così poi vediamo cosa serve veramente questa all'economia italiana, quindi meno burocrazia, meno poteri di veto, spendere i soldi non meno ma meglio, ridurre le partecipate e certezza del diritto civile. Ci risentiamo domani su questo, chiudiamo su questa parte, tanto fino al 5, fino al 4, io non vedo l'ora che sia il 5, comunque vada il voto, non vedo l'ora che sia il 5, tanto che se vinceranno i sì diranno colpa tua, bastardo, se vinceranno i no dico ecco ti sta bene, andò, ho già visto il film, Chiudo con un ascoltatore che dice ma quale sì, quale no, Barisoni non hanno capito, anche i Sassi che stai facendo campagna occulta per l'astensionismo. Oh là! Servo dei gestori degli impianti di risalita che faranno i soldi il weekend il 4 con la gente che va a sciare invece che votare. È vero, sono un servo occulto del Dolomiti Super Ski. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.